Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Eddie Bertotti di Academy 2, che distribuisce il film I Tuttofare al cinema da giovedì 9 giugno 2022, ben trovato. Ben trovati a voi. Raccontiamolo. È un film che definirei una commedia deliziosa, una commedia sui pregiudizi, sulle relazioni umane, sull'amicizia. È la storia di una società di idraulici tuttofare che a un certo punto si trova a dover sostituire uno di loro perché sta andando in pensione. Si presenta un giovane immigrato marocchino che ha a disposizione una settimana di prova per dimostrare di essere adatto al lavoro. Viene subito preso in antipatia dal capo idraulico che gli promette dal primo giorno che non passerà questa settimana di prova. Nel corso di questa settimana, casa dopo casa, cliente dopo cliente, succederanno una serie di cose che metteranno in discussione i pregiudizi di ambo le parti e forse faranno capire anche noi, il pubblico, che serve più tempo che una prima occhiata per poter giudicare una persona. Cosa sappiamo della regia? È una regista catalana, questa è la sua opera terza. Già i suoi primi due film avevano girato molto per i festival. Tre di tutto fare è stato presentato lo scorso anno al Festival di Locarno, dove ha vinto il premio per i migliori attori. Una nota importante: gli attori sono non attori, sono veri idraulici che hanno prestato loro stessi, i loro corpi, le loro esperienze, le loro storie al servizio del film, e l'abilità di questa regista è stata proprio lavorare con loro, attingendo alle storie di suo padre, perché anche il padre della regista era un idraulico, ha saputo tirare fuori la verità dalle vere storie dei suoi personaggi, creando quindi un cortocircuito fra la realtà e la finzione, la narrazione del film, e rivestendolo ulteriormente con un velo di commedia. E in più è recitato in catalano. È recitato in parte in catalano, in parte in spagnolo. Infatti consiglio la visione in lingua originale se possibile, perché molti sketch, molte incomprensioni sono anche dovute all'uso dello spagnolo e del catalano, quindi due lingue che coesistono appunto in Catalogna e che rendono questo film ancora più ricco sotto il profilo culturale. Che circuitazione ha avuto all'estero? Il film è stato venduto in molti territori che lo stanno facendo uscire più o meno in questo periodo, ma è stato soprattutto un successo a casa propria, quindi in Spagna. Il film è stato infatti il vincitore assoluto dei premi del cinema catalano, i loro Oscar locali. Ci dai i vostri riferimenti per saperne di più sulle sale? Potete trovare il dettaglio delle sale seguendo i nostri social. Vi consiglio in particolare la pagina Facebook di Academy 2, in cui troverete a breve l'elenco delle sale disponibili. Il film I Tuttofare al cinema da giovedì 9 giugno 2022. Un saluto e un ringraziamento ad Eddie Bertotti di Academy 2 che lo distribuisce. A presto! A presto! Con Tommy Weber per presentare il suo film Come Prima al cinema da giovedì 16 giugno 2022. Ben trovato. Ciao, buongiorno. Come lo presenteresti il tuo film? È la storia di due fratelli che si ritrovano dopo 10-7 anni che vanno a fare un grande viaggio tra il nord della Francia e il sud dell'Italia. Com'era nata l'idea del film? È l'adattazione di un fumetto di Alfred, che è un fumetto francese ma con personaggio italiano. Quando l'ho letto ho pensato che potrebbe essere un bel film, perché raccontava una storia che cercavo di raccontare da un sacco di tempo, una storia di due fratelli, e mi sembrava universale, bellissima, generosa, e dunque con una produzione francese abbiamo comprato i diritti, e dopo una produzione italiana che è Mad Entertainment è venuta sul progetto, il film è diventato quasi soltanto italiano, soprattutto italiano. È stata una bella cosa perché è una storia italiana alla fine. Com'è stata la trasformazione dal fumetto al cinema? Più difficile che pensavo, perché all'inizio ho pensato è già quasi un film questo fumetto, ma la verità è che nel fumetto c'era qualcosa di nostalgica, anche una nostalgia del cinema italiano degli anni 50, una cosa un po' della dolce vita con un punto di vista un po' francese di più. E dunque quando ho iniziato a lavorare sulla sceneggiatura ho capisco che non volevo fare un film nostalgico, non volevo fare un film piano di referenza, volevo fare il mio film, un film anche con il mio presente, quello di attore e quello del mondo. Dunque abbiamo trovato con gli altri sceneggiatori la nostra storia, che alla fine è molto differente del fumetto, È stato un po' difficile, ma come tutte le adattazioni, penso. Quali erano gli aspetti del fumetto che più ti piacevano e ti andava di raccontare? Beh, che è bellissimo è di vedere una storia intima, piccola, al riguardo della grande storia dell'Europa, dell'Italia e della Francia dopo guerra. Questo confronto tra la piccola storia e la grande storia mi sembrava potente. E l'altra cosa è che è raccontato con sole, con piacere, con generosità e pieno di speranza e di desiderio, e che mi ha commosso il più. Qual è stato finora il tuo percorso cinematografico? Soprattutto ho fatto film indipendenti in Francia, film che ho prodotto io, che ho portato quasi solo io, che sono andato al cinema, ho fatto un sacco di cose, ma in Francia. E in Italia è stato il primo film un po' con una produzione un po' importante, con soldi, e dunque è stato bellissimo di fare un primo film un po' grosso dentro un altro paese che è il mio. L'Italia mi ha aperto una grande porta e dunque spero che farò altri film qua. Che distribuzione sarà? Uscirà in Italia, credo in tutta l'Italia, e dopo speriamo in Francia, ma non è ancora sicuro. Il film Come Prima al cinema da giovedì 16 giugno 2022. Un saluto e un ringraziamento al regista Tommy Weber. A presto! Grazie mille, ciao! Sì. Con Carlo Chiaramonte, regista del film L'altra luna, al cinema da giovedì 16 giugno 2022, ben trovato! Buongiorno, ciao! Che racconto è il tuo? È una storia d'amore tra due ragazze, delle quali una è italiana e una invece è una ragazza bosniaca che vive a Sarajevo e si chiama Luna e dà il titolo, diciamo, al film. E niente, un incontro tra di loro, la storia è ambientata interamente a Sarajevo, perché la ragazza italiana Martina fa un viaggio lì per andare a trovare un amico che lavora lì e viene introdotto in una comitiva, in una cerchia di giovani come lei, incontra e conosce Luna e si innamorano, e con poi tutta una serie di complicazioni dovute al fatto che chiaramente la loro storia sarà scoperta. Luna in realtà era in procinto di sposarsi con il suo fidanzato di lunga data, e questo crea tutta una serie di problematiche fino poi allo scioglimento finale, insomma. Come era nato tutto? Nasce da un cortocircuito tra mie esperienze di vita personali, che sono legate a Sarajevo, alla città di Sarajevo, perché io, insomma, sono stato attivo lì subito nell'immediato dopoguerra della guerra di Bosnia con delle associazioni per dei progetti così, di solidarietà internazionale, quindi era una città che conoscevo e conosco da tanto tempo, frequentavo regolarmente, tant'è vero che lì girai anche un documentario nel 2005 dedicato proprio alla città. In uno di questi miei viaggi di piacere a Sarajevo c'è stato un anno, diversi anni fa, perché poi la gestazione di questo film è stata molto, molto complessa e molto lunga, quindi più o meno nel 2011 io ero come al solito a passeggio nella via pedonale centrale della città e vedo una scena che avevo visto mille volte fino allora, molto consueta lì, e cioè vedere due ragazze giovani, chiaramente amiche del cuore, che camminano a braccetto, una vestita tutta all'occidentale, in canottierina e così via, l'altra velata perché islamica. Questa immagine che vedevo appunto per, non so, la millesima volta, quella volta ha fatto cortocircuito con un fatto che mi era capitato poco prima di partire per Sarajevo a Roma. C'è un'amica che era disperata perché lei era appunto omosessuale, i suoi genitori non lo sapevano, lo avevano appena scoperto, quindi avevano appena scoperto che lei aveva una relazione con un'altra ragazza, con tutti i problemi che questo comporta dentro le famiglie in questi casi. E quindi questo fatto e quell'immagine hanno fatto cortocircuito, per cui io così di colpo mi sono trovato a pensare tra me e me, chissà questa ragazza islamica, velata, più tradizionalista, cosa penserebbe se venisse a sapere che la sua migliore amica ha una relazione con un'altra donna. E da lì è nato, diciamo, lo spunto drammatico, poi il soggetto, poi la sceneggiatura, e poi ci sono voluti anni e anni per riuscire a montare il film produttivamente, insomma. Ecco, a proposito di sceneggiatura, su quali aspetti hai voluto concentrarti? Queste domande mi mettono in difficoltà, perché io sono molto restio a parlare del film. Io sono convinto che gli autori non dovrebbero parlare dei loro film, non dovrebbero spiegarli, cioè potrebbero al più appunto dare delle informazioni aneddotiche su come sono nati, eccetera. Però il compito di entrare nel merito della storia, come è sviluppata, cioè, secondo me è della critica e poi fondamentalmente del pubblico. Un autore che parla troppo del suo film e lo spiega troppo ha sbagliato qualcosa, perché se voleva usare le parole faceva lo scrittore, magari. Se vuole fare il regista usa il linguaggio del cinema e parla con quello, non ha bisogno poi di commentare o approfondire. Quindi io su questo mi tengo molto ritroso. Okay. Ecco. Che percorso distributivo hai pensato? Il percorso distributivo è venuto fuori un po' miracolosamente. Lo spunto è del 2011, eravamo pronti in teoria già con dei finanziamenti trovati già nel 2016-2017. Di fatto è stato girato tra dicembre 2018, alcuni interni a Roma, e gennaio 2019, altri interni esterni a Sarajevo. Quindi, come dicevo prima, è stato tutto molto complicato, poi va bene, è arrivato anche il Covid con la chiusura delle sale e così via, per cui sembrava, io avevo perso anche un po' le speranze, sinceramente, sembrava che questo fosse l'ennesimo dei film indipendenti italiani condannati a rimanere nei cassetti. Poi, devo dire, tutta questa vicenda del film ha una specie di angelo salvatore, che è uno degli attori del film, la persona che interpreta il personaggio di Matteo, che si chiama a sua volta Matteo Silvestri, che si è talmente appassionato a questo progetto che me lo ha, diciamo, salvato due volte, già a termine riprese e post-produzione, intervenendo finanziariamente per poter chiudere il film, e adesso distributivamente, nel senso che lui si è messo proprio di punta, ha fatto un accordo con la produzione, è subentrato, diciamo, nell'incarico della distribuzione, e ha fatto lui, ha cominciato a contattare sale, esercenti, e ha costruito questo piccolo calendario adesso del 16 di giugno, comunque in 8 città, quindi Roma, Milano, Torino, Palermo, Messina e altre, e poi probabilmente una seconda uscita con altre sale che si erano rese disponibili, ma che non erano disponibili adesso in questo momento, ma sarebbero per settembre, quindi è probabile che in settembre ci sarà una nuova uscita in alcune città che non sono toccate da questo primo, da questa prima uscita. E quindi qualunque intervista, qualunque cosa farò in questi giorni, lo ringrazierò pubblicamente, perché se non fosse stato per lui, probabilmente questo film nelle sale non si sarebbe mai visto. Il film L'altra luna al cinema da giovedì 16 giugno 2022, un saluto e un ringraziamento alla regista Carlo Chiaramonte. A presto! Grazie, grazie a voi. Con Giovanni Basso, regista del film Mindemic, al cinema da mercoledì 15 giugno 2022. Ben trovato. Ciao, ciao Federico. Ce lo presenti? Il film è in uscita appunto il 15 e siamo molto contenti di questo, e anche tra l'altro coincide addirittura con la data in cui in teoria si smette anche di usare, credo, le mascherine nei cinema, proprio il 15. Mindemic è un film di genere, è stato definito un po' psychological dramedy. Io faccio un po' fatica a definirlo, però direi che potrebbe anche starci. È un film in cui c'è questo meraviglioso Giorgio Colangeli che interpreta un regista di cinema sul Viale del Tramonto, quindi verso la fine della sua carriera, ormai rinchiuso in casa per motivi non del tutto chiari che si devono poi comprendere, e a cui arriva una telefonata dal nulla, insomma, dal suo storico produttore, che gli propone di realizzare un nuovo film dopo decenni in cui lui non combina nulla, non solo per motivi suoi o che dipendono dal suo volere, ma anche per altro, appunto, che si capisce nel film. E quindi gli arriva questa chiamata dal nulla e decide di mettersi a scrivere, provando a coinvolgere gli storici collaboratori ed entrando in un loop creativo che lo trascinerà a vivere 3 giornate oniriche, surreali, al di là di quello che si sarebbe aspettato prima di accettare il lavoro, ecco. Com'era nato il progetto? Con l'idea, voglia di raccontare un personaggio estremo, un personaggio fatto di solitudine, fatto di spinta creativa. Ed è venuta l'idea di scrivere questa storia. Ho pensato subito potesse essere Giorgio l'unico candidato per questo ruolo, e quindi ho stampato una sua fotografia. Quando scrivo la sceneggiatura me la sono tenuta con me tutto il tempo per essere ispirato anche dal suo viso, dalla sua mimica, dai suoi occhi. E questo mi ha aiutato molto a stendere la sceneggiatura, che poi gli ho inviato, temendo anche ovviamente che fosse rifiutata, perché poi uno scrive tante cose, magari non sempre possono piacere o interessare. E invece Giorgio, nel giro di 2-3 giorni massimo, mi ha chiamato entusiasta, che insomma il materiale gli piaceva molto e questa cosa mi ha reso felice, e abbiamo deciso quindi di lanciarci in questo progetto abbastanza matto, perché io avevo da anni in mente l'idea di realizzare un'opera prima che fosse, da un punto di vista anche proprio realizzativo, tecnico, che mi potesse dare una serie di libertà che a volte non possono esserci per tanti motivi su una produzione, diciamo, più tradizionale. E quindi ho deciso di realizzare anche il film da un punto di vista tecnico con un supporto che oggi in realtà si usa anche abbastanza magari in altri paesi, che è poi il telefono, utilizzando però delle ottiche anamorfiche su cui ho lavorato per rendere l'immagine, l'isolamento di quest'uomo all'interno di questa appartamento. La scelta è stata comoda perché noi giriamo in location a Roma, in un appartamento che non ha delle grandi geometrie, quindi se avessimo avuto l'ingombro di una grande camera con ottiche anamorfiche, che generalmente sono anche molto grandi, sarebbe stato veramente quasi impossibile ottenere la maggior parte delle inquadrature del film. Invece, lavorando con un telefono che è super sottile, come lavorare con un foglio, con queste ottiche piccole abbiamo potuto permetterci delle inquadrature che altrimenti avremmo potuto solo realizzare ricostruendo l'appartamento in teatro, e quindi avendo geometrie molto diverse. Invece così è stato possibile farlo lì, e tutto questo ha portato alla realizzazione del film, però lungo un periodo tra l'altro di 2 mesi, perché lavoravamo solo certi giorni della settimana e non tutti i giorni, e quindi questo ci ha anche aiutato volendo il processo. Non è una cosa solita, perché generalmente si parte con una troupe, si fanno 5, 6 settimane, 8, quello che è, invece noi facevamo 2-3 giorni a settimana per più settimane, anche per avere tempo di metabolizzare quello che si stava facendo, quello che si stava creando, e Giorgio aveva molti impegni, come spesso ha, quindi ci è venuto anche incontro questo modo di lavorare, ecco. La scelta di un grande attore che pratica anche molto teatro e che è anche molto ben disposto verso le nuove produzioni e i giovani registi. Sì, Giorgio l'ho conosciuto per un cortometraggio 4 anni fa, e ci siamo trovati molto bene a lavorare su quel progetto, su un corto fortunato, e quindi mi è venuto un po' spontaneo quando ho pensato a questo personaggio di proporlo a lui, e se mi avesse detto di no io non so se avrei potuto fare film, perché non sapevo con chi poter lavorare al di fuori di lui. Quindi è stata una scelta istantanea dal momento in cui ho deciso di scrivere questa storia, e lui ha dato tanto, perché Giorgio, come tu hai detto, è un attore di teatro di grande esperienza, e questo è un film che dentro ha molta teatralità, essendo appunto che ha il concetto della monolocation, quindi dell'unico ambiente in cui tutto si svolge, e fondamentalmente di questo personaggio che ha uno screen time enorme. E ci sono altri personaggi, ci sono altri interpreti, c'è Rosanna Gentili, c'è Roberto Andreucci, c'è Paolo Gasparini, Claudio Alfonsi, Rossella Gardini, ci sono altri attori presenti nel film. Ovviamente il tempo di Giorgio, di Nino, del protagonista, è enormemente più grande, visto che tutto il film è insomma incentrato su di lui, e quindi si gioca un po' sul confine tra cinema e teatro in diverse volte, anche a livello registico. Mi sono divertito a scegliere delle inquadrature che fossero quasi borderline tra quella che può essere una regia cinematografica e teatrale, proprio per strizzare l'occhio anche in quel senso, ecco. Che scelta distributiva hai fatto? Adesso si fanno queste che sono così considerate le uscite evento, ecco, quindi il film ha una vita distributiva in sala. Abbiamo scelto questo periodo perché è appunto il periodo invernale o autunnale, ma anche in realtà primaverile, non è stato fortunato per tanti aspetti, anche per i motivi che conosciamo della pandemia e di tutto quello che si è trascinato, e quindi abbiamo scelto di fare un'uscita evento, ecco, su alcune città selezionate, su alcuni cinema selezionati, per portare il film dove il pubblico può avere un riscontro di questi cinema de sé, quindi il Messico di Milano, il Troisi di Roma, il Galliera di Bologna, l'Apollo di Ferrara, insomma, e altri anche a Pescara e altre in altre città che adesso ancora devono uscire. E sarà un'uscita come quelle appunto che ci sono adesso, cioè spesso ci sono, cioè il film ha un tempo di uscita in sala che è contenuto nell'arco di un paio di settimane o poco più, e sono anche contento di questo, nel senso che si viene a creare un interesse verso il progetto che è contenuto in un determinato tempo, e il periodo è questo qua. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli e le sale? Instagram è mindemic_movie, mentre il Facebook è mindemicmovie, quindi senza underscore. E poi ci sono sui vari siti dei cinema, ci sono già i biglietti in vendita, informazioni sugli eventi, sulle serate, sulle programmazioni. Il film Mindemic al cinema da mercoledì 15 giugno 2022. Un saluto e un ringraziamento al regista Giovanni Basso. A presto! Grazie. Con Lorenzo Bianchini, regista del film L'Angelo dei Muri, al cinema da giovedì 9 giugno 2022. Ben trovato. Ben trovati a voi, grazie dell'invito. Te ne parli? È un film che sostanzialmente parla di un anziano che viene sfrattato da quello che è stato teatro di tutta la sua vita, cioè casa sua, e per non lasciarla, perché lasciarla significherebbe insomma abbandonare tutto, abbandonare i ricordi e morire, si costruisce una sorta di piccolo rifugio, di nascondiglio in fondo al corridoio di questo decadente appartamento, e lì sopravvive alla insaputa dei possibili affittuari, insomma, che arrivano, finché arriva una madre, una bambina, e da lì in poi la sua vita verrà completamente stravolta. Tendenzialmente è un dramma psicologico, è un film sulla solitudine, è un film in cui ci si immerge nell'animo del protagonista e si vanno ad esplorare un po' così meandri un po' più bui e lontani del suo inconscio, riesumando insomma antiche paure, traumi irrisolti, fallimenti che poi tornano fuori come fantasmi, gli si apre un mondo magico che avvicina un po' tutto l'impianto poi ad una sorta di favola nera. Come nasce tutto? Ha a che fare probabilmente con un percorso intrapreso già nel 2007 con un film Occhi, in cui mi piaceva esplorare insomma con i silenzi, i piani sequenza, queste dimensioni di solitudine che poi permettono una sorta di introspezione, no? E da lì ho preso il via battendo questo sentiero, trovando un'altra sperimentazione sul campo con il successivo Oltre il Guado, in cui abbiamo diradato tutto, pochi dialoghi, un solo attore immerso in mezzo ai boschi, quindi già immerso in una stato di solitudine completa, e dopo con L'Angelo dei Muri c'è stata proprio l'apoteosi di questo punto di vista in cui tutto si è completamente rarefatto, insomma c'è questa esplorazione tramite i silenzi e il nulla dal punto di vista anche del dialogo, infatti la difficoltà era sostenere un impianto narrativo di un'ora e 45 minuti con fondamentalmente un solo attore chiuso nel suo appartamento, quindi una sola location e con i silenzi, infatti l'attore non parlava. E abbiamo costruito questa cosa con Michela Bianchini e Fabrizio Bozzetti, creando questa bolla sognante in cui appunto tutte le inquietudini e solitudini venivano fuori potenti. E la scelta di un attore su cui incentrare tutto? Era importantissima, perché effettivamente tutte le emozioni, tutti gli stati emotivi passano attraverso la figura di un attore che, non parlando, deve far passare tutto attraverso appunto mimica, viso particolare, gestualità. E quando ho visto la foto di Pierre Richard ho detto: questa è la persona giusta per riuscire a far passare attraverso, insomma, la sua fragilità tutte queste emozioni che il personaggio doveva in sceneggiatura, insomma, far arrivare al pubblico. Tra l'altro questo suo anche naso pronunciato, questi suoi capelli così scapigliati riconducevano tutta la dimensione narrativa anche in un ambito che ha a che fare con il fantasy, con il fantastico, con la favola, con la fiaba, cosa che noi, insomma, premeva far venire fuori questo aspetto anche nel film. E quindi diciamo che la sua figura evocava un po' tutti questi stati, questi scarti emotivi, e quindi appena l'ho visto ho detto: assolutamente bisogna contattarlo. Ed è stata una cosa molto bella, perché è una persona estremamente alla mano. Le grandi star poi alla fine sono così, perché insomma è uno che ha scritto le sorti della commedia, no? È francese, conosciuto ovunque, ed è stata una persona splendida, meravigliosa. È subito nata una simpatia, poi la sceneggiatura gli è piaciuta subito, era suo desiderio fare qualcosa qui in Italia perché ha i nonni di origini italiane, e poi appunto il fatto di fare un dramma psicologico in cui passa tutta la forza attoriale attraverso la gestualità e non le parole era una cosa che, insomma, l'aveva affascinato al tempo, e quindi è stata un'esperienza molto bella, soprattutto per me. E la scelta distributiva? Questo è un film che è stato appunto prodotto da Tucker Film con la collaborazione di Rai Cinema e My Movies. Tucker Film, oltre ad averlo prodotto, sono anche dei distributori, assieme alla casa di distribuzione di My Movies ovviamente, e stanno portando avanti questa, insomma, opera di divulgazione. Adesso ci sono molte sale che in Italia poi lo proiettano in varie parti d'Italia. E considerata anche, insomma, questo periodo un po' oscuro del cinema, siamo molto contenti che tanti, insomma, ce l'abbiano ospitato e lo mettano in programmazione. Quindi è importantissimo anche per sostenere il cinema andare a vederlo. In quante sale è l'uscita? Dovrebbe essere uscito in 16-17 sale, è uscito in varie città. Stiamo battendo i vari territori, poi si aprono delle prospettive di arene estive. Il film L'Angelo dei Muri al cinema da giovedì 9 giugno 2022. Un saluto e un ringraziamento al regista Lorenzo Bianchini. A presto! Un abbraccio e un ringraziamento a voi. Con la coregista Artemide Alfieri per presentare il documentario La Carovana Bianca. A Roma, Spazio Apollo 11, giovedì 16 giugno 2022. Ben trovata. Ciao, ciao a tutti. Ce lo racconti? Sì, La Carovana Bianca è un documentario veramente indipendente che abbiamo girato appunto durante il secondo lockdown, e racconta la storia di queste piccole famiglie circensi che si sono trovate bloccate a causa della pandemia nella periferia della provincia di Napoli, e soprattutto la metamorfosi che hanno dovuto subire, perché appunto i circensi sono forse gli ultimi nomadi rimasti e si sono trovati a dover invece essere stanziali, sedentari, con tutte le conseguenze che implica appunto un cambio di stile di vita che è stato costruito comunque attraverso i secoli. Come era nata l'idea? Banalmente ci annoiavamo, eravamo durante appunto la pandemia, eravamo a casa, eravamo così un po' depressi, e abbiamo deciso di uscire, di fare questo atto anche un po' provocatorio dato il momento, e per strada abbiamo trovato questo tendone del circo che ci è sembrato appunto quasi chiamarci, no? Quasi un richiamo. Non è stato il primo circo che abbiamo trovato, quello su cui abbiamo girato poi il documentario, però ci è sembrato poi di capire che comunque la situazione che tutti stavamo vivendo collettivamente per i circensi aveva delle ripercussioni emblematiche su di loro. Come avete pensato di strutturarlo? All'inizio noi non sapevamo cosa avremmo girato, siamo partiti, è stato tutto un work in progress. Ti dico solo che non avevamo una produzione, non avevamo l'attrezzatura, quindi abbiamo trovato un piccolo escamotage, abbiamo comprato l'attrezzatura su Amazon, abbiamo girato il documentario per 2 mesi e poi l'abbiamo restituita indietro. Ci chiamiamo Cinema Clandestino perché questo approccio clandestino e si è connotato un po' tutta l'esperienza di questo documentario, quindi noi non avevamo né una scaletta né una sceneggiatura né una struttura, man mano che giravamo, man mano che abbiamo avuto modo di avvicinarci e conoscere i circensi, sono emersi dei topos, delle tematiche che ci sembravano più interessanti e su cui poi abbiamo iniziato a focalizzarci. E come è articolato? Alterna interviste o li avete seguiti nel quotidiano? No, non è un documentario di interviste, non ci sono volutamente, non le abbiamo fatte. Possiamo definirlo documentario osservativo anche se non è del tutto così. E appunto racconta questo momento di stallo, di stasi, che comunque proprio forse è come contrappunto, no? L'idea di vedere questi circensi costretti a fermarsi quando tutta la loro vita, una vita nomade, una vita in movimento, faceva emergere appunto tutto quello che è mancato a causa della pandemia. In più, vabbè, sono uscite fuori altre tematiche come il fatto che comunque la società esterna tende a fagocitare le minoranze, quindi loro si sono trovati costretti a reinventarsi, a cambiare lavoro, proprio a fare cose che non avrebbero mai fatto prima e avere anche altre opportunità, come per dire quella di poter seguire la scuola per i ragazzi, perché ovviamente ci sono tutte le generazioni, quindi c'è dalla nonna ultraottantenne che era trapezista negli anni 50 fino alla più piccola che è una bambina di 6 anni che normalmente appunto proprio perché sono nomadi non può seguire la scuola, mentre grazie o comunque con la DAD poteva avere un percorso scolastico più continuativo. O per dire il tema della cura degli animali, perché questo è un altro argomento che spesso viene citato quando si parla del circo, però se uno pensa che in generale gli animali loro li usano per lavorare, comunque per lo spettacolo, in un momento di stasi invece comunque c'è una profonda cura, una profonda attenzione nei confronti appunto degli animali che in ogni situazione loro devono nutrire, devono pulire questi animali. Che impressioni ne hai ricavato? I circensi ci hanno insegnato molto, prima di tutto ci hanno insegnato l'idea della solidarietà, dello stare insieme, del condividere, che forse sono tutti valori che noi abbiamo un po' perso, no? E invece loro proprio in un momento di difficoltà, di crisi come quella pandemica, si sono uniti ancora di più e appunto questo è stato veramente un grande insegnamento, vedere come appunto all'interno della comunità circense era l'unione, la solidarietà, l'aiutarsi a vicenda, era veramente un elemento fondamentale. Che percorso distributivo state facendo? Noi proprio come ti dicevo che abbiamo questo approccio così un po' clandestino, siamo finora andati avanti da soli in senso proprio quasi artigianale, no? Abbiamo bussato anche alle porte dei cinema, fortunatamente abbiamo avuto una buona prima al Festival dei Popoli, che è comunque un festival antichissimo per i documentari, e poi man mano stiamo andando per adesso avanti da soli, poi ci sono ovviamente anche degli interessamenti da parte di distributori, però stiamo continuando, ecco, la nostra piccola battaglia di indipendenti nel dare visibilità. A questo proposito avete dei riferimenti web? www.cinemaclandestino.it e lì ci sono, vabbè, anche i nostri contatti. Il documentario La Carovana Bianca a Roma, allo spazio Apollo 11, giovedì 16 giugno 2022. Un saluto e un ringraziamento alla coregista Artemide Alfieri. A presto. Grazie mille, grazie mille, vi aspettiamo. con Maria Iovin, regista del documentario Corpo a Corpo, a Roma, allo spazio Apollo 11, martedì 21 giugno 2022. Ben trovata. Ciao, ciao a tutti. Lo raccontiamo brevemente? Corpo a Corpo è un documentario su Veronica Yoko Plebani, che è un'atleta paralimpica che ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo di quest'anno, o meglio dell'anno successivo alle Olimpiadi che sono state cancellate per la pandemia. E io l'ho seguita durante i 2 anni preolimpici e ho seguito le sue avventure sportive, ma soprattutto ho seguito una ragazza di 26 anni che ha avuto una meningite a 15 anni e che, nonostante abbia, come dice lei, un corpo con qualche pezzettino in meno e con qualche cicatrice, continua a vivere una vita normalissima, anzi è una vera e propria paladina della bellezza fuori da ogni canone. Lei è stata copertina di Vogue a gennaio 2022 ed è semplicemente bellissima, bisogna vederla. Com'è partito tutto? I produttori, che sono Angela Prudenza e Alfredo Fiorillo, mi hanno chiamato e mi hanno detto: conosci la storia di Veronica? Ti piacerebbe fare un documentario su di lei e ci piacerebbe farlo con te. Per cui io l'ho conosciuta, l'ho voluta conoscere, e ovviamente, e devo dire che quando l'ho incontrata la prima volta, lei era in ritiro ad agosto a Livigno, prima dei mondiali di triathlon che ci sarebbero stati in Svizzera, per cui sono andata in questo ambiente in cui c'erano 1000 atleti, ogni ora era scandita da un allenamento, da un massaggio, da qualcosa da fare, e poi ci siamo ritrovate in camera sua, abbiamo iniziato a parlare e ho capito che davanti a me in realtà avevo appunto solo una ragazza. Lei, la prima cosa che mi ha detto è stata: dimmi che cosa vuoi fare, io vorrei non parlare solo di tempi, allenamenti, sudore, eccetera, io vorrei parlare di me, vorrei che scopriste la mia vita anche di studentessa, la mia vita di ragazza normale, ed era esattamente quello che volevo fare io. Non volevo fare l'apologia di un'eroina, ma appunto raccontare una donna. E quindi da lì abbiamo iniziato e devo dire è stato davvero un percorso condiviso tra me e Veronica. Io dico sempre che lei è la mia aiutoregista, non la mia protagonista, perché abbiamo davvero lavorato sempre sempre insieme, fianco a fianco. Quanto tempo avete trascorso insieme? Quanto sono durati i lavori? Sarebbero dovuti durare un anno, perché la nostra intenzione era di girare l'anno preolimpico, quindi partire da agosto 2019 e finire ad agosto 2020 per le Olimpiadi di Tokyo 2020 appunto. E poi invece c'è stata una pandemia in di mezzo che ci ha cancellato le Olimpiadi e quindi siamo andati avanti ancora un altro anno. Abbiamo girato insieme 2 anni e ovviamente durante il periodo, diciamo, del lockdown abbiamo avuto uno stop, perché abbiamo deciso di non girare in quel periodo. Ovviamente avremmo anche potuto, perché per lavoro avremmo avuto permessi da Conte, però io ho deciso anche con Veronica di fermarci in quel periodo, perché non ci andava di raccontare un momento che era troppo vissuto di pancia, avevamo bisogno di capire cosa stava succedendo, per cui abbiamo avuto quella piccola pausa e poi siamo andati avanti. È stata un po' dura, però ce l'abbiamo fatta. Come avete pensato e deciso di strutturarlo? È stato un lavoro che non è finito mai, nel senso che inizialmente c'è stata, ovviamente, parlo di cose tecniche, di un soggetto, un trattamento, quindi un'idea generale di come volevamo fare il film. Io l'ho scritto con Silvestro Maccariello e con lui abbiamo pensato ad una prima forma, a cosa volevamo fare, però poi di volta in volta, quando andavamo a girare, ci riscriveva. Io mi ricordo queste telefonate notturne con Silvestro, perché poi nei periodi in cui andavamo a girare magari eravamo stati a scrivere per settimane prima, a ragionare, ripeto, anche a condividere con Veronica i suoi momenti di vita, a decidere quali erano i periodi in cui saremmo andati da lei, eccetera. E poi andavo lì e ovviamente, come succede sempre in un documentario, tutto quello che è in testa in realtà prende un'altra forma, che è la forma della realtà. E quindi questa scrittura non, davvero non si è fermata mai, oltre alla decisione estemporanea, che è una cosa un po' quella più facile a cui pensare, no? Quando devi girare un documentario, che ti trovi di fronte a una situazione e decidi se girarla, come girarla, come affrontarla, eccetera. Però poi c'è sempre stato un lavoro di riscrittura passo dopo passo, e vabbè, poi è inutile dirlo, nel momento in cui la storia ha preso una piega inaspettata per tutti con la pandemia, abbiamo proprio dovuto fare i conti con una struttura narrativa che c'era, davvero si era trasformata tra le nostre mani. E lì devo dire siamo proprio rientrati totalmente in scrittura, come se stessimo cominciando dal capo, e abbiamo portato a termine il film. Quindi fondamentalmente abbiamo scritto sempre. Che esperienza è stata? Un'esperienza bellissima. È stata un'esperienza molto forte per me, perché ovviamente è il mio primo film documentario, quindi proprio da regista, da autrice, da professionista, per forza di cose è stata un'esperienza fortissima, totalizzante, però soprattutto per me è stato molto molto forte l'incontro con Veronica. Io non ho timori a definirmi una femminista, un'attivista, e il motivo per cui ho deciso di raccontare la storia di Veronica era perché volevo raccontare la storia di una donna coraggiosa, anche di una donna che in realtà è una ragazza, perché io l'ho conosciuta che aveva 22 anni, nel frattempo ne ha fatti 25, 26, però di una ragazza che semplicemente ha così tanta fiducia e autostima e forza che appunto anche con un corpo così diverso riesce ad essere se stessa e a lasciare una traccia nel mondo. Quindi all'inizio è stato questo quello che mi ha mosso, e da donna ho fatto grandissime riflessioni sull'idea, sul modo in cui il nostro corpo, il corpo di donne abita questo mondo, e pensavo, non dico di saperne tutto, però pensavo di averne fatto una riflessione abbastanza profonda, di essere pronta a fare un film su questo, e poi invece conoscere Veronica mi ha davvero spostato l'asse, cioè mi ha fatto conoscere delle cose alle quali non ero ancora arrivata, quindi proprio da persona, da donna, è stato davvero un terremoto per me, che spero di aver restituito nel film. Che distribuzione sarà? Il nostro distributore è in Luce, inizieremo a distribuire lunedì 20 e avremo 2 giorni a Roma, il 21 saremo all'Apollo 11 e poi accompagneremo il film io, i produttori e Veronica a Firenze, a Milano, ad Ascoli, a Sinigallia, a Torino e poi chiudiamo con la mia città Caserta. E ciò non esclude che ci aggiungeranno altre date nelle quali appunto accompagneremo il film. Il documentario Corpo a Corpo in tour al cinema da lunedì 20 giugno 2022. Un saluto e un ringraziamento alla regista Maria Iovine. A presto! Grazie, ciao! Con Blue Yoshimi, protagonista del film Il Nido di Mattia Temponi, online da lunedì 20 giugno 2022, ben trovata. Ciao, buongiorno. Che racconto è questo? Questo è un racconto distopico, più o meno, anche perché poi in realtà parla di una pandemia, l'abbiamo pure vissuta, quindi a quando è stato scritto deve essere distopico. E in realtà più che altro parla della relazione che si va a costruire tra questa Sara, che sarei io, che viene infettata, ed è un'infezione che, diciamo, si manifesta con scatti di rabbia, una specie di zombie ma molto umano, e Ivan, che è un volontario. Quindi un'idea come se una pandemia, diciamo, normalizzata nella società, per cui questi volontari si prendono cura dei pazienti in questi appunto nidi, che dovrebbero essere accoglienti, full of comfort, e loro invece si ritrovano in un nido che era pensato per essere, diciamo, distrutto, quindi in due, con poche provviste, diciamo, dovesse arrangiare nel mezzo di questa epidemia. Come sei entrata a far parte del progetto? ho fatto un provino tipo tantissimo tempo fa, a dire il vero, il primissimo provino l'ho fatto più o meno 4 anni prima di iniziare a girare, poi fu bloccato per motivi di produzione e poi sono tornata, diciamo, dopo quei 4 anni mi hanno richiamata e io al tempo già mi ero innamorata totalmente di questa Sara, quindi insomma mi era rimasto molto nel cuore in realtà come provino. Sì. Avevo addirittura scritto a Mattia, cosa che non faccio mai nella mia vita, gli avevo scritto ciao, mi ricordo di questo provino, insomma spero tutto bene, cose così, quindi così. Cosa ti convinceva del testo? Lei, cioè proprio Sara, il fatto che fosse comunque un po' rock in qualche modo, un po' anche... a volte anche un po' antipatica, insomma il suo essere antipatico in realtà mi piace tanto, e poi quest'idea invece che dietro ha appunto la visione di un mostro, di quello che veniva chiamato mostro davanti a tutti, in realtà poi c'era una persona, c'era un essere umano e anche molto con sfaccettature di tenerezza, quindi proprio in realtà lei, proprio Sara. Per quanto riguarda le dinamiche uomo-donna e violenza di genere, in che misura sono presenti secondo te in questo racconto? Secondo me in alta misura, nel senso che alla fine, a un certo punto, proprio leggendo la sceneggiatura, dissi: ma che faccio? Ma questa è una specie di metafora. Questa è una metafora comunque di una violenza, perché ci sono tutti i meccanismi di manipolazione che vengono messi in atto e sono meccanismi molto specifici in realtà, ma che so per certo che Mattia ci ha lavorato anche con, per esempio, anche gruppi femministi a Torino che abbiamo incontrato, comunque si è spesso confrontato con me, c'è una scena in particolare, mi ricordo proprio, si confrontò con me perché doveva esserci, cioè non avevo una maglietta e quindi erano a capire se era più importante vedere o non vedere, insomma lui in questo secondo me lui è stato molto saggio, ma proprio per rendere poi veritiera questa storia ci sono delle frasi che, non lo so, per chi un minimo ha conoscenza o comunque esperienza anche diretta di manipolazione si riconoscono subito. È una circolazione esclusivamente online o state pensando anche a uscite nelle sale? In questo momento so che sarà solo online, credo che diciamo si stiano muovendo anche tra arene, festival e cose del genere. La prima volta è stato presentato al Trieste Science Film Festival, quindi quello è stato il suo esordio in grande schermo e ora sì, e ora le piattaforme. Ci sono dei riferimenti web per saperne di più, un sito internet o pagine social? No, sai che non credo, la mia pagina però se volete, io okay. Supporto il film 360 e le produzioni, chiaramente Alba Produzione, Trisi Film che è dell'Argentina e Minerva che li seguisce. Il film Il Nido di Mattia Temponi, online da lunedì 20 giugno 2022. Un saluto e un ringraziamento a Blue Yoshimi, protagonista del film. Ciao! A presto! A presto, grazie mille! Con Davide Barletti, co-regista del documentario Nulla di sbagliato, online su MyMovies da giovedì 16 giugno 2022 alle ore 19 per 72 ore. Ben trovato! Ciao a tutte e a tutti gli ascoltatori della Onda Rossa. Ciao Federico. Ce ne parli? Insieme a Gabriele Gianni, con cui firmo la regia, è il mio ultimo film. È un film a cui tengo molto, idealmente per quanto mi riguarda è una prosecuzione di un precedente film che era di finzione, invece è puro cinema della realtà, quest'ultimo, che era La guerra dei cafoni. È un viaggio nel mondo della preadolescenza, è un viaggio nelle solitudini ma anche nelle straordinarie storie di un gruppo di appunto preadolescenti, di undicenni, di ragazzine e ragazzini italiani in giro per l'Italia. È un film prodotto da Cinemovel Foundation, con il quale ho avuto la fortuna e il piacere di lavorare negli anni in varie parti del mondo. Loro sono sempre molto attenti ai confini dove il cinema insomma riesce a essere anche elemento virtuoso di crescita sociale. Come ti dicevo, insomma, Nulla di sbagliato è un viaggio nel mondo della la preadolescenza, in quella che giornalisticamente è stata chiamata generazione Covid. È un viaggio immersivo, perché forse la particolarità di questo film è che il dispositivo del racconto è proprio dato nelle mani delle ragazzine e dei ragazzini, nel senso che un po' per il limite della pandemia, noi venivamo da 3 anni di lavoro all'interno di queste 6 scuole in giro per l'Italia. Lavoravamo con i ragazzini di prima media, poi è arrivata la pandemia e quindi questo lavoro quotidiano che avevamo in presenza non si è più potuto fare, e da lì in poi è nata l'idea di raccontare il mondo appunto della preadolescenza attraverso delle piccole telecamere e un sistema poi di riprese in remoto. Il sistema di riprese in remoto avveniva nelle classi dei ragazzi, e poi invece queste piccole telecamere che abbiamo donato alle protagoniste e ai protagonisti si sono raccontati da sole, ed è uscito, a mio avviso, qualcosa di veramente unico e straordinario. Un film che appunto racconta per la prima volta forse le camerette dei bambini, insomma, non so come chiamarli, perché poi sono undicenni che non sono né ragazzi né bambini, no? E quindi questa forse è la particolarità del film, l'autoracconto. Quanti sono stati i ragazzi e le ragazze che si sono raccontati? Noi abbiamo lavorato con 300 studentesse e studenti. Il film ha vari step. Il primo step è stato questi 300 ragazzi di queste 6 scuole sparsi un po' per tutta l'Italia. Con loro abbiamo costruito prima dei diari cartacei che un po' indagavano il concetto di tempo appunto per loro, cioè il passato, il presente, il futuro e il sogno inteso proprio il sogno onirico. Questi diari, che sono stati creati da me e Gabriele insieme a Cinemovel, glieli abbiamo spediti. Loro hanno lavorato 2 o 3 mesi insieme a dei partner territoriali su questi diari cartacei, dove scrivevano un po' quello che volevano. Dopodiché questi diari ci sono arrivati, questi 300 diari, e da lì abbiamo capito che c'era un mondo e abbiamo deciso di fare 2 ulteriori step. Il secondo step era quello di fare delle riprese sempre in remoto, perché noi non potevamo essere in presenza all'interno delle classi, dove i ragazzi leggevano, facevano un po' quello che volevano e ci raccontavano un po' il diario, le parti che secondo loro erano migliori, che avevano composto, e poi ad alcune e ad alcuni di loro abbiamo affidato appunto queste piccole telecamere, questi robottini, con il quale poi ognuno di loro l'ha avuto per 2 settimane, hanno continuato il loro racconto all'interno delle loro camere da letto, e quindi è uscito questo racconto ambientato in 2 luoghi a cui di solito noi adulti non abbiamo tanto accesso, che sono proprio le classi scolastiche e le loro camerette, e da lì è uscito questo mondo narrativo. Cosa ti ha impressionato del loro punto di vista? Che noi adulti tentiamo sempre nei film, nei romanzi, nella narrazione dell'adolescenza, in realtà c'è sempre un punto di vista adulto, no? Che filtra e che media. A volte vogliamo che ci raccontino le cose che vogliamo sentirci dette, e questo forse è uno dei grandi limiti che c'è nei film di solito, dove gli adolescenti sono protagonisti. Quello che io vedo da adulto, c'è sicuramente un grande isolamento, una grande separazione, però anche una grande consapevolezza di stare vivendo un periodo così importante, così di passaggio, così epocale, scusate un po' la retorica, però c'è una grande consapevolezza di questi undicenni, di vivere un qualcosa di unico, sia a livello sociale, sia a livello di formazione, no? E quindi anche una sorta di grande ribellione, forse, chiaramente sentiamo sempre dire, no, di questi ragazzini lobotomizzati dai social media, dai dispositivi, in parte è vero, ma in parte anche, forse non è proprio così, perché comunque c'è un uso ludico, un uso a volte anche dissacrante, insomma, non sarei così totalmente pessimista, ecco. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli? Il film Nulla di sbagliato in realtà fa parte di un progetto complessivo che Cinemovel Foundation ha seguito, e quindi chi è interessato a saperne di più può visitare la pagina www.diaridelTempo.eu, dove viene raccontato tutto il progetto. Il 14 giugno il film sarà in anteprima in concorso al Biograph Film Festival. Documentario Nulla di sbagliato, online su My Movies da giovedì 13 giugno 2022 alle ore 19 e per 72 ore. Un saluto e un ringraziamento al coregista Davide Barletti. A presto! Ciao, a presto!

un volume dedicato a lui, una tavola rotonda con lui, in questo caso appunto anche con Tommaso Ragno, che coincide anche con un altro omaggio che ho voluto fare ad Antonio Capuano, un altro regista napoletano. Presenteremo un libro su di lui e verrà lui, e ho voluto anche omaggiarlo proiettando in piazza Buco in testa, il suo ultimo film di Antonio Capuano, in cui c'è anche Tommaso Ragno protagonista, un film uscito durante appunto la prima pandemia, il primo lockdown, e quindi penalizzato, che mi piacerebbe far riscoprire e sottolineare l'importanza di Capuano, il grande cineasta, al di là anche della citazione di Paolo Sorrentino, Non ti disunire. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? Sì, naturalmente tutti i social Pesaro Film Festival, e il sito è www.pesarofilmfest.it dal 18 al 25 giugno, la 58esima mostra internazionale del nuovo cinema di Pesaro. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Pedro Armocida. A presto! Ciao, grazie. Con Paolo Armelli, co-direttore artistico della 36esima edizione del Mix Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+, a Milano e su Nexo dal 16 al 19 giugno 2022. Ben trovato. Grazie, grazie a te Federico. Lo presentiamo a chi non lo conoscesse? Mix Festival è un festival di cinema LGBTQ+, che ha una tradizione molto lunga, perché appunto siamo alla 36esima edizione. Quest'anno abbiamo deciso di avere come claim la frase Back to Love, un ritorno all'amore inteso in senso lato, ma soprattutto un ritorno alle nostre tradizioni, diciamo, perché dopo due edizioni pandemiche a settembre torniamo nelle nostre date di giugno, dal 16 al 19 giugno. Saremo fisicamente a Milano al Teatro Strehler e in due altre location in Corso Garibaldi, al CAM e alla Casa degli Artisti, ma disponibili anche in tutta Italia su Nexo Plus, quindi in streaming con una selezione dei nostri titoli. Siamo proprio un festival cinematografico che evidenzia soprattutto la cinematografia indipendente, ovviamente a tema queer, e abbiamo una grandissima selezione di titoli, lungometraggi, cortometraggi, documentari. Ovviamente siamo un vero e proprio concorso cinematografico, quindi ci saranno anche dei premi, e insomma abbiamo un programma davvero ricco. Sono 50 titoli quest'anno, e ce n'è un po' per tutti i gusti. Com'è strutturato? Allora, noi appunto siamo dal 16 al 19 giugno, abbiamo 4 giornate in cui alterniamo a proiezioni cinematografiche vere e proprie, oltre a quelle in streaming, anche vari appuntamenti, diciamo, più di intrattenimento, quindi ci saranno delle cerimonie oltre che di premiazione con delle esibizioni musicali, stand-up comedy, premiazioni anche speciali, nel senso che per esempio quest'anno, anzi noi ogni anno abbiamo questi due premi speciali che sono la Queen of Comedy e la Queen of Music, che quest'anno saranno assegnati a Luciana Littizzetto e a Risa, quindi le avremo con noi sul palco. Insomma, è proprio un mix vero e proprio, non solo nel titolo, ma vogliamo insomma proporre la più vasta rappresentazione di quello che è il talento LGBTQ+, e non solo. Tutto questo tesserandosi sul nostro sito mixfestival.eu. Abbiamo una tessera che permette di partecipare a tutto quanto e anche di vedere i film in streaming. È prevista anche la presenza di autori e autrici? Ci saranno, sì, ci saranno tanti registi e registe, soprattutto, che verranno a presentare i loro film, che insomma accompagneranno i loro film. Ci saranno anche dei momenti di, diciamo, di dibattito, di Q&A, in cui anche il pubblico insomma potrà interagire direttamente con i filmmaker, che veramente vengono da tutto il mondo, da tutta Europa, ma anche da altre parti del mondo come il Canada, il Kazakistan, eccetera. Diamo tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? Per accedere basta tesserarsi sul nostro sito mixfestival.eu, e anche lì troverete tutti i riferimenti del programma, il palinsesto, tutte le informazioni, ma seguiteci anche sui social, Mix Festival su Facebook e Instagram, perché ci saranno anche tutti gli aggiornamenti e i video per chi magari si perde qualche momento e vuole recuperare i momenti salienti del festival. I luoghi e gli orari? Iniziamo alle 20 di giovedì 16 giugno al Teatro Strehler di Milano, e poi continuiamo fino a domenica sera, ovviamente a partire dal pomeriggio. Tutti gli orari si trovano sul sito, ma siamo anche poi al CAM e alla Casa degli Artisti di Corso Garibaldi, quindi tutto molto vicino e molto centrale a Milano. Cosa differenzia la parte live con quella online? Non c'è grande differenza, nel senso che noi offriamo appunto una selezione dei nostri titoli in concorso che si può vedere anche in streaming su Nexo Plus, quindi sempre facendo la tessera su mixfestival.eu si ha un codice che permette di accedere a questa speciale sezione di Nexo Plus e di vedere appunto una selezione di titoli. Diciamo il vantaggio della programmazione online è duplice, nel senso che non solo appunto permette di vedere i film anche se non si è in loco, se non si è a Milano, ma anche permette una durata maggiore della visione, perché i film a scaglioni saranno disponibili fino al 23 giugno, quindi insomma oltre la durata stessa del festival. 36esima edizione del Mix Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+, Back to Love, il sottotitolo per l'edizione di quest'anno, a Milano e online su Nexo Plus dal 16 al 19 giugno 2022. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore artistico Paolo Armelli. A presto! Grazie mille, grazie, a presto, arrivederci. Con Fidi Daio, direttore artistico dell'African Diaspora Cinema Festival a Firenze dal 15 al 18 giugno 2022, ben trovato. Grazie, grazie, grazie, grazie. Che cos'è questo progetto? Questo è un progetto che stiamo portando avanti ormai da 7 anni. È un progetto che accoglie tutte le storie che ha a che fare con la diaspora africana. È un progetto che praticamente è una narrazione basata soprattutto sulle storie che raccontano storie africane. Non vuol dire dove uno si trova e non vuol dire nemmeno qual è la produzione, può essere la qualsiasi produzione. L'importante per noi è che diciamo narrazione africana, tutto qua. Sta andando molto bene e quest'anno per la prima volta in Italia abbiamo un bellissimo film che noi lo presentiamo proprio la prima serata, che è intitolato Little Sashmo. E Little Sashmo non è altro che la figlia di Louis Armstrong. È un onore che questo film ce l'abbiamo noi, e questa la figlia di Louis Armstrong è proprio presente durante il periodo di festa, è venuta direttamente dagli Stati Uniti per stare con noi. Ecco. È l'ottava edizione o la settima? No, la settima. Quanti sono i film presentati? Abbiamo ricevuto 140 film da più di 50 paesi del mondo. Come è strutturato il festival? Si svolge a una villa storica di Firenze che si chiama Villa Romana, che è proprio a cuore di Firenze, e lo facciamo all'aperto. Gli screening con un grandissimo schermo di cinema. Tutti gli anni abbiamo tantissimi visitatori e tutti gli anni vengono sempre diversi registi. Quest'anno aspettiamo quasi 6 o 7 registi. 2 sono già arrivati e aspettiamo anche gli altri. Gli orari sono dal mattino alla tarda sera? Cominciamo a proiettare la sala interna dalle 6 e poi si sposta, quelli praticamente sono alcuni cortometraggi, è una bellissima sala. Dopodiché andiamo all'aperto dalle 8:30. Prima di tutto cominciamo con un bellissimo gruppo, il trio, che suonerà. Dopodiché alle 10 c'è la proiezione di Vito Sassimo. Così tanti film in 4 giorni, quante proiezioni ci sono ogni giorno? Abbiamo 2 sale, e di questi fianco, perché partiamo di tarda pomeriggio, abbiamo tantissimi cortometraggi e alcuni documentari e lungometraggi, che quelli lunghi lo proiettiamo all'esterno. Com'è stata la scelta dei titoli?